Penso che l'atto di Mattarella sia gravissimo, sia una negazione della democrazia parlamentare e sia un attacco ai diritti di fondo della Costituzione. Senza se e senza ma. Sono stato fino a ieri sera, all'assemblea di potere al popolo che si è svolta 2 giorni a Napoli, dove abbiamo provato un documento dove preparavamo la nostra opposizione anche di piazza nei confronti del governo Salvini Di Maio. Non abbiamo nessuna simpatia per loro. Abbiamo un governo che è formato da un uomo del Fondo Monetario Internazionale, cioè da un uomo della Troica, che non avrà la maggioranza in Parlamento. Questo io credo non può essere accettato da qualcuno che pensa e si consideri democratico. Sì, voglio essere molto chiaro. Problema di democrazia, no, sostanzialmente. È un problema di democrazia vigilata, cioè nel senso che se ha ragione Mattarella, dobbiamo riscrivere l'articolo 1 della Costituzione e dire l'Italia è una repubblica presidenziale fondata sullo spread. Se c'è una cosa che smaschera in qualche modo l'azione di Mattarella, che ripeto noi condanniamo totalmente, sono le ambiguità e le furbizie di 5 Stelle e Lega su questo terreno. Non si può pensare di abolire la Fornero, aprire un fronte sulle politiche economiche senza avere la voglia di mettere in discussione l'Unione Europea. Questo lo dovevano dire esplicitamente, quindi questa è la cosa che loro pagano. Noi potere al popolo lo diciamo specialmente, noi siamo per la rottura dell'Unione Europea, perché consideriamo l'Unione Europea sostanzialmente una dittatura tecnocratico-finanziaria. Quindi noi siamo per la disobbedienza e la rottura, lo diciamo esplicitamente, quindi a maggior ragione noi siamo contro questa azione di Mattarella. Trovo incredibile che ci siano, lo vedo anche sulla rete, persone che si dichiarano antifasciste e poi in nome dell'antifascismo dicono Mattarella ha fatto bene. Voglio ricordare loro che Mattarella non ha fatto obiezioni, e avrebbe potuto farle, al fatto che Salvini, che fa dei post continuamente razzisti, fosse Ministero degli Interni. Non ha fatto obiezione sul programma dove c'è scritto prima gli italiani, che anche recentemente su alcuni servizi la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima come atteggiamento sui servizi. Non ha fatto obiezioni su un programma legge ordine, legittima difesa, eccetera, che secondo me stravolge i diritti costituzionali. Quindi Mattarella su tutte le cose fascistoidi del programma di Salvini Di Maio non ha fatto obiezioni, ha fatto solo obiezione a un professore il quale ha scritto dei libri anche molto cauti contro l'euro. Questo avviene su dettatura della Germania e su dettatura dell'Unione Europea e della Troica, e lo dimostra chi ha incaricato. Quindi noi dobbiamo sapere che non usciremo dalla nostra democrazia limitata fino a che non metteremo in discussione i poteri di cui anche Mattarella è un ispiratore. Tutti coloro che adesso difendono Mattarella e le sue prerogative sono degli ipocriti e sono delle persone che in realtà, pur che di difendere lo spread, sono disposte anche a mettere in discussione la nostra democrazia. Tra le tante letture che si leggono in queste ore c'è anche quella che vede l'insistenza di Salvini su Savona come una mossa furba per arrivare a fare la vittima e poi sbancare alle prossime elezioni. In questo caso ci sarebbe una totale complicità tra Mattarella e Salvini e anche Berlusconi dietro. Io penso che i due ispiratori politici di Mattarella siano Berlusconi e Renzi in Italia, all'estero la Merkel, e quindi penso che non ci sia niente di limpido in quello che sta facendo Mattarella. È chiaro che è molto probabile che il risultato di tutto questo sia la vittoria alle prossime elezioni di un'alleanza Salvini-Berlusconi, ma mi pare evidente in questo caso che questo Mattarella, che non credo che sia sprovveduto su questo, lo ha messo nel conto. Evidentemente un governo Berlusconi-Salvini e gli va bene. Lo dico questo a tutti quelli che ci sono a sinistra, nella sinistra persa, che secondo me può solo andare a farsi friggere, lo dico proprio con chiarezza, che ancora adesso dì però ci ha salvato da Salvini e da Berlusconi. No, non ci ha salvato Mattarella. Dal punto qui siamo nell'ambito dei giudizi politici, non più dei giudizi di democrazia. Nell'ambito dei giudizi politici Mattarella ha fatto a Salvini e a Berlusconi il migliore assist della sua carriera.